Mix 24 di Giovanni Minoli. Sì o no, sì o no, sì o no, sì o no, sì o no, sì o no. E allora sì o no, manca un mese al referendum costituzionale del 4 dicembre. E mentre il dibattito è sempre più acceso, gli indecisi sono naturalmente moltissimi. Allora ascoltiamo le ragioni dei favorevoli e dei contrari. Marcello Pera, ex presidente del Senato, ex senatore di Forza Italia del Popolo della Libertà tra il 96 e il 2013. Ecco, professor Pera, lei è per il sì al referendum. Perché? Ho almeno due ragioni. Una riguarda il testo, il contenuto del testo, che io credo che sia su alcuni punti in particolare apprezzabile, un segno positivo, un passo in avanti, l'inizio di un percorso dove finalmente la nostra Costituzione diventa modificabile e non soltanto un dogma di fede. L'altra ragione è un po' più personale e politica, cioè riguarda Forza Italia, nella quale io ho militato, e la storia di Forza Italia. Noi avevamo come primo punto, fin dal 1994, la riforma della Costituzione. Ci abbiamo tentato nel 97, non è andata bene, ci abbiamo tentato nel 2005, non è andata bene. Io credo che questa volta dobbiamo cogliere l'occasione per farlo andare bene. E qual è il punto però più qualificante del suo sì? Ce n'è uno più qualificante degli altri? Sì, ce n'è uno in particolare, un altro in subordine, ma il primo è, secondo me è fondamentale: la eliminazione del voto di fiducia al governo al Senato, che crea certamente più stabilità. Guardate la storia degli ultimi 20 anni, quando un governo vince alla Camera non riesce ad avere la maggioranza al Senato, così fu nel 94 per Berlusconi, fu nel 96 per Prodi, nel 2006 ancora per Prodi, nel 2013 per Bersani. Non c'è maggioranza omogenea perché ci sono elettorati diversi. Ecco, e qual è la ragione del no che invece le sembra interessante, sulla quale si potrebbe lavorare? No, credo che si sarebbe dovuto meglio lavorare sulla composizione del Senato. Questo ovviamente non è un Senato federalista, ma la sbornia federalista finalmente è passata, è un Senato regionalista, e allora forse lì si poteva congegnare meglio il meccanismo di elezione e di partecipazione. Senta, e crede che alla fine si riuscirà invece a trovare un accordo sulla legge elettorale o no? La vedo molto difficile, perché anche coloro che si oppongono all'attuale legge elettorale, come il Movimento 5 Stelle, in realtà sotto sotto e anche un po' sotto sopra la gradiscono. Ed è una legge elettorale certamente rischiosa, perché può consegnare l'Italia a forze extra contro il sistema, però è una legge elettorale che una maggioranza la fa. Ecco, Stefano Schwarz invece è coordinatore nazionale del comitato Scelgo No. Ha avuto la tessera del PD, ma non si definisce un politico di professione. Ecco, dottor Schwarz, perché no? Beh, perché no? Perché io scelgo no perché è una riforma sbagliata. Questa è un'altra Costituzione, come ha detto Luigi Ferraioli. Non ci propinano qualcosa di diverso. E qual è il punto più qualificante del suo no? Ce n'è uno più qualificante degli altri? Sì, che in un colpo solo ci chiedono di confermare il cambiamento di 47 articoli della Costituzione. Praticamente ci dicono: o mangiate questa minestra o saltate dalla finestra. Già solo questo basterebbe per dire di no, io credo. Ecco, ma c'è qualche ragione del sì che le sembra interessante, sulla quale si potrebbe lavorare? Assolutamente, loro dicono che bisogna cambiare, noi siamo a favore del cambiamento, il problema è che non in questa maniera. Ma un punto specifico? Beh, la riduzione dei costi della politica è una cosa che interessa a tutto il paese, il problema è che non si fa in questa maniera, questa è una riduzione dei costi finta. Senta, alla fine, secondo lei, si riuscirà a trovare un accordo sulla legge elettorale a partire dalla proposta di Renzi? Io credo credo di no, comunque non spetta a me decidere, spetta al Parlamento, penso che si prenda tempo e si parli di altro. Il referendum comunque non è ovviamente sulla legge elettorale, ma sulla Costituzione. Cambia poco, anche la cambiassero, il nostro no resta convinto. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ogni forma di comunicazione politica è una forma di manipolazione allo scopo di spingere l'elettore in una certa direzione. C'è qualcuno che vorrebbe fare di questa campagna referendaria uno scontro all'arma bianca, noi invece salutiamo tutti con un sorriso, con molto affetto. Gli psicologi definiscono tre possibili forme di manipolazione: quella secondo il volere, che avviene attraverso la persuasione, quella secondo il potere, che avviene tramite la violenza, e quella secondo il sapere, la cui arma è la convinzione. Esclusa la violenza, la comunicazione politica ha due possibilità: persuadere o convincere. In 8 casi su 10, la prima è più efficace della seconda. La bulimia di potere, che è stata messa in campo da Matteo Renzi, che ha conquistato militarmente tutto il conquistabile, ma non vuole soltanto governare l'ordinaria amministrazione, vuole cambiare addirittura la Costituzione italiana. Chi viene convinto crede in qualcosa, chi viene persuaso crede in qualcuno. Io sono solo uno che urla, ha urlato la rabbia. Allora voi dovete, quando dovete votare, non basarvi sulla vostra intelligenza, sulla vostra cultura o informazione. Dovete votare in base alla vostra rabbia. Mitterrand diceva che vince le elezioni chi sa raccontare al suo popolo la storia che il popolo vuole sentirsi raccontare in quel preciso momento, a condizione che lui, cioè il candidato, sia l'eroe di quella storia. Ma questa storia, chi la scrive? Massimo D'Alema, Un paese normale, edizioni Mondadori, 10.000 lire costava. E no, ma è un libro che peraltro vi consiglio, perché in realtà è scritto da Velardi e Cuperlo. D'Alema ci ha messo soltanto la firma e Velardi e Cuperlo scrivono bene. Ecco, naturalmente era Matteo Renzi che svelava i nomi degli autori del libro di D'Alema, Un paese normale, perché insomma, e questo è il tema di oggi che vogliamo affrontare, tutti sanno che esistono, ma tutti fingono di non saperlo. È lo staff che sta nell'ombra, esperti di comunicazione politica, che lavorano per conto dei protagonisti, fantasmi in americano, ghostwriter, speechwriter, spin doctor, una categoria professionale insomma invisibile per mandato. Scrivono discorsi, libri, sempre più spesso si occupano anche dei social come Facebook e Twitter. Mario Quinto Massazza è uno di questi uomini nell'ombra. Si è occupato di comunicazione per tutta la vita, ha lavorato per la IBM, la Fiat, Telecom, ma soprattutto per anni è stato il ghostwriter, quello che scriveva i discorsi, cioè di Gianni Agnelli. Per lui ha scritto molti discorsi, tra cui l'ultimo letto in Senato poco prima di morire. Ecco, com'è stato lavorare per Gianni Agnelli? Io ho vissuto con l'avvocato Agnelli, diciamo, nell'ultimo decennio della sua attività, così piuttosto a stretto contatto. È stata una cosa, un'esperienza straordinaria, devo dire. Ma com'era straordinaria perché? Ma perché era un personaggio di uno spessore e di una complessità che oggettivamente era affascinante, come poi è risultato in tutte le cronache e in tutti i ritratti che ne sono stati fatti. Senta, ma com'era organizzato il vostro lavoro di scrittura? Il lavoro di scrittura era organizzato in maniera molto semplice. Quando lui decideva che ad un certo invito, ad un certo evento avrebbe voluto partecipare, ci girava le carte e ci chiedeva di pensarci un pochettino su. E dopodiché, fatte le mie pensate a quelle con i colleghi dell'ufficio stampa, gli si andava di solito a proporre qualche argomento. Naturalmente questo era tutto collegato al fatto che lo conoscevamo perfettamente, quindi certo, non gli proponevamo argomenti, tesi estranei al suo pensiero. Ma quanto c'era di lei in questi discorsi? Spero niente. Ah, cioè spera di essere riuscito a essere Gianni Agnelli, insomma. Ad essere stato lui, assolutamente no, perché non confondiamo le pulci con Leviatano, come diceva, no, d'accordo, il Moby Dick, però l'immedesimazione è un requisito fondamentale, certo, per fare questo mestiere. Ecco, lei ha seguito la comunicazione di Tom Manager, abbiamo parlato di Gianni Agnelli, ma anche collaborato con John Elkann, Marco Tronchetti Provera, Franco Bernabè. Ecco, sì, quanto è stretto il rapporto tra chi scrive discorsi e chi effettivamente li pronuncia? Lei si può immedesimare in ognuno di questi? Tendenzialmente sì, perché altrimenti non funziona. Il rapporto. Ed è difficile immedesimare, cioè quali sono le caratteristiche che bisogna acquisire? È abbastanza complicato, se devo essere sincero, soprattutto quando si salta da una personalità all'altra, perché certo, sono personalità punto. Complesse, ricche, come dire, con tutti i loro problemi e le loro caratteristiche personali. È da interpretare, appunto. Senta. E bisogna interpretarli, ci sono parecchi modi, il mio modo è un modo, come dire, diciamo un po' analitico e un ma io prima di tutto mi studio alla perfezione tutto ciò che hanno detto prima che io iniziassi a lavorare con loro. Ho capito. E questa è una delle cose. Poi mi studio le personalità nel rapporto interpersonale, certo, nelle chiacchiere che si fanno prima, durante e qualche volta anche dopo la preparazione. Ma le è capitato di fare un grosso errore? Qui sei veramente pentito? A me non è capitato. Va bene, le faccio ascoltare un frammento di Claudio Velardi, che per anni è stato lo spin doctor di Massimo D'Alema. Vengono caricati, diciamo, allo spin doctor tutte quante le responsabilità, non quelle delle cose buone che accadono, perché le cose buone che accadono se le prende tutte il leader di riferimento, quelle cattive no. Ci fu un episodio che poi divenne anche famoso, e fu quando D'Alema andò in televisione, in diretta, a parlare delle ragioni dell'intervento militare in Kosovo. Alcuni secondi prima della registrazione, D'Alema sbottò perché la sedia su cui era seduto non era all'altezza giusta, e quindi fece la Velardi, anche la sedia non me l'hai messa bene, ma diciamo fu il famoso episodio della sedia che Velardi non aveva sistemato bene sotto il prezioso culetto del leader, diciamo. Senta, dottor Masazza, parte la sedia. Lei oggi tiene un seminario dal titolo Il mestiere dello speechwriter, presso il master in retorica per le imprese, la politica e le professioni dell'Università Vita e Salute del San Raffaele. Mi dice il titolo di un libro che fa leggere sempre i suoi studenti? Ce n'è uno? Gli farei leggere moltissimo Dostoevskij, per esempio. Per chi deve studiarsi l'animo di un'altra persona, credo che sia fondamentale. Una delle palestre migliori. Senta, ma come adesso che ci sono i social, come è cambiato l'uso della professione di speechwriter avendo anche i social a disposizione? È un altro mestiere? Guardi, è un altro mestiere. I social a me fanno venire in mente le squadre di calcio dilettantistiche che allevano milioni o centinaia di migliaia di ragazzini che aspirano a giocare più o meno bene al pallone. Ma poi a un certo punto da queste squadre dilettantistiche quelli che emergono e che vanno in Serie A sono veramente pochi. È perché hanno qualcosa da dire, sono qualcuno, insomma, diciamo. Ecco. Sono qualcuno e sanno lavorare in rete. Ancora una cosa, nella comunicazione politica, l'idea di Mitterrand di farsi eroi di una storia, come fece con Generazione Mitterrand, sempre e comunque, secondo lei, funziona ancora oppure no? Beh, col dovuto senso della misura può funzionare, sì. Quindi, secondo lei, per concludere, lo storytelling di Renzi può essere vincente anche per il referendum? Non le piace quello storytelling? Ma così è iniziato molto male, a dire la verità, secondo me. L'errore più grave qual è stato? Beh, lo sappiamo tutti, questo eccesso di personalizzazione, certo, di momento istituzionale. Io, guardi, se posso raccontare un minimissimo aneddoto riguardo all'avvocato. Sì. Lei ha citato all'inizio di questa chiacchierata il famoso discorso al Senato, no? Che fu l'ultimo. Beh, io mi ricordo una cosa di quella preparazione del discorso che mi lasciò esterrefatto e fu un momento estremamente formativo. E l'avvocato a quell'epoca stava già male, piuttosto male. Però quando il presidente del Senato, Marcello Pera, gli chiese di fare questo intervento, lui prima di tutto disse sì subito. La seconda cosa, durante la preparazione vera e propria, era che io cercavo di tagliare al massimo il discorso per farlo il più breve possibile, cioè recitabile da lui, e lui si oppose molto secca con una frase che non mi dimenticherò mai. Lui disse: il mio presidente mi ha chiesto di fare 45 minuti di discorso e io faccio 45 minuti di discorso. Beh, lì è uscito l'ufficiale del Nizza Cavalleria, insomma. Non solo, è uscito l'uomo che aveva un rispetto incredibile per l'istituzione. Allora l'istituzione si rispetta, poi dopo la possiamo anche certamente riformare, ma c'era questo sacro rispetto per chiunque investisse una carica istituzionale, fosse il Presidente del Senato o il capo dei Vigili Urbani di Villar Perosa. Vabbè, è un racconto interessante che fa riflettere su una qualità di classe dirigente in ogni caso, insomma, nel rispetto alle istituzioni. Ma tornando naturalmente alla politica, è certo che a nessun elettore piace immaginare, sapere che un politico finge di andare a braccio quando invece tutto è calcolato, ogni pausa, ogni gesto, ogni movimento. D'altro canto, l'abbiamo detto, se qualcosa va storto è subito caccia il colpevole, quello che sta nell'ombra, come è accaduto lo scorso luglio alla convention repubblicana di Cleveland, quando la notizia della nomina ufficiale di Trump come candidato alle elezioni presidenziali è stata oscurata sui media internazionali dal caso del discorso tenuto dalla moglie, da Melania Trump, che conteneva delle intere frasi del discorso fatto nel 2008 dall'attuale First Lady Michelle Obama. Un plagio, insomma, Mario. Il ghostwriter ha sbagliato. Molto semplice, è stato grave. Melania non ha controllato . E Trump neppure, è andata così. Però lì è il caso di uno staff di un candidato veramente atipico come alle Trump, adesso dopo mesi non ma, sarebbe ma più successo. Nell'antica Grecia, Pietrangelo, la retorica era uno dei pilastri dell'apprendimento, insieme alla grammatica, alla logica. La retorica era l'arte, una complessa espressione per dare un'espressione di sé. Ecco, oggi c'è un bravo oratore nella politica italiana, uno che a te piace particolarmente? A me? Sì. Con distacco guardo, osservo, ascolto. Il De Vulgari eloquenzia di oggi, come sai bene, Giovanni, volge all'efficacia. Quindi non c'è più la parte della speranza a cui era affidata la fatica della retorica con la grammatica e la logica a sostenerla. Adesso invece è la rabbia. E forse il più efficace, il più bravo è Alessandro Di Battista. E malgrado attinga questa grande schiera, diciamo, dei social, a quel linguaggio, all'esuberanza della rabbia, cioè lui riesce a essere efficace e a emozionare il suo pubblico. Non dice niente, però. Però è la retorica. Cioè, diciamo, allora, la forma dell'espressione del sentimento, sono d'accordo con Pietrangelo, quindi, però non dice niente. Beh, quindi è bravissimo. Dice benissimo. Allora, niente. Vuoi dire che nulla. Guarda che il Forlani digitale è solo di Maio, però. Abbastanza ha definito i social come le squadre dilettantisti, che l'abbiamo detto, anzi l'ha detto lui, che allenano centinaia di ragazzini, ma poi quelli che emergono naturalmente sono pochi. Ma il successo politico però passa sempre più spesso anche dai social, e così per il Movimento 5 Stelle, che ha trovato in Facebook una piazza adatta ai propri toni. La popolarità di Renzi è passata anche dalla rottamazione del vecchio linguaggio politico condotto a colpi di tweet. Ecco, Sara Bentivegna, docente di comunicazione politica alla Sapienza, autrice di A colpi di tweet, la politica in prima persona. Ecco, partiti e candidati sono ormai tutti saliti sul carro di Twitter, ma in questa fase 2.0 della politica c'è davvero qualcosa di nuovo o è vino vecchio in botti nuove? Ma c'è qualcosa di nuovo e qualcosa di vecchio. Qualcosa di nuovo perché molti soggetti che prima non potevano parlare hanno la possibilità di parlare. Qualcosa di vecchio perché sono anche gli stessi soggetti che prima parlavano che hanno maggiore spazio su Twitter. Senta, la politica al tempo di Twitter è più informazione o storytelling? Cioè testimoni o protagonisti? Beh, dipende dalle situazioni. La politica comunque è più su Twitter, in questo momento è più storytelling. Ma comunicazione immediata significa davvero più democrazia oppure no? No, comunicazione immediata significa per molti versi più confusione, più voci che si accavallano e poi c'è maggiore difficoltà a capire, a trovare un po' il bandolo della matassa. Ma dall'azione collettiva all'azione connettiva, tutte le mobilitazioni di piazza degli ultimi anni hanno trovato spazio sui social, ma Twitter e tweet possono davvero cambiare il mondo? No, però possono cambiare il racconto delle lotte per cambiare il mondo. Twitter in realtà è stato soprattutto questo. Non ha tanto aiutato l'organizzazione delle mobilitazioni, ma il racconto delle mobilitazioni e anche il superamento dei confini geografici naturali. Professoressa, è vero che il simbolo, l'hashtag, si è affermato grazie alle elezioni in Iran? Cioè, com'è andata? La situazione è stata che in Iran l'hashtag appunto si è affermato per far raccontare ciò che accadeva lì. Le ricerche hanno dimostrato che poi in realtà era molto usato da soggetti che non erano sul territorio e che twittavano usando quell'hashtag da Germania, Svizzera, Stati Uniti e in qualche modo hanno contribuito a raccontare e a dare voce a chi lì appunto in Iran rischiava di non averla più. Senta, professoressa Bentivegna, siamo in piena campagna elettorale, in Italia con referendum, negli Stati Uniti con le elezioni presidenziali. Cominciamo dagli Stati Uniti, chi vince e chi perde su Twitter a oggi? Beh, a oggi su Twitter sicuramente Trump, come dire, la piattaforma di Twitter è quella che più gli ha corrisposto e che più ha usato e quindi da questo punto di vista sicuramente Trump vince. Per quello che riguarda poi invece le conversazioni, il movimento su Twitter, io ho visto dei dati che invece dove emerge che vince la Clinton. Nel senso che più persone utilizzano gli hashtag o l'account della Clinton, però dal punto di vista strumentale sicuramente Trump l'ha usato meglio. In Italia invece come si comportano gli schieramenti del sì e del no? Beh, si comportano così come un tempo ci si comportava quando si affiggevano i manifesti e si cercava di coprire il manifesto dell'altro con il proprio. In realtà ci sono appunto degli influencer, dei militanti molto attivi che fanno una guerriglia quotidiana praticamente. Senta professoressa, un'ultima cosa, lei si occupa di comunicazione politica da molti anni, cosa pensa dei talk in TV? Hanno ucciso la politica? Hanno contribuito, ma secondo me sono stati un po' i politici, diciamo che entrambi contribuiscono a dare una versione ormai un po' stucchevole. Sappiamo... Si fanno del male a vicenda insomma. Sì, secondo me sì. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, insomma la politica è sempre la stessa, ma i social cambiano il racconto che se ne fa. Ecco, Pietrangio, cambia lo stile del romanzo anche? È cambiato il canone. Noi siamo passati dalla fase che a suo tempo Gustave Le Bon definì la società delle masse e quindi la rivolta delle masse, siamo arrivati a una fase in cui queste masse sono diventate magma, cioè non hanno più la capacità di un impatto politico. Paradossalmente questa è l'era dell'establishment, di un'elite che semina altrove la confusione, e il canone non può che essere quello della disarticolazione. Cioè? Nel senso che non c'è più un'avanguardia che si metta alla guida di una massa. Il Novecento che cosa fu? Un fronteggiarsi di due schieramenti, di due visioni del mondo, di due opposte concezioni del mondo, che vedevano intanto un'elite in grado di interpretare quello che da dietro le grandi masse volevano, quindi il capitalismo da un lato, il comunismo dall'altro lato. Oggi invece siamo in una fase in cui, per esempio, le grandi strutture del capitalismo hanno fatto sì che quella grande massa si sia trasformata in consumatori, cioè non hanno più la capacità di decidere rispetto al proprio destino e quindi di condurre un combattimento, una guerra, un fronteggiare qualcosa, sì, ma di consumare e basta, senza più produrre un destino per sé. Però nello stesso tempo si ribellano all'elite, certo. Cioè noi siamo di fronte in se tutto gliela il mondo, fanno riuscire no vabbè però siamo di fronte sì. a proprio questo distacco clamoroso dappertutto sì. la stessa emersione di personaggi come Trump sì. ma cioè, non solo e quella diciamo, è la novità significa. Interessante vediamo ecco, come va a finire ma vediamo ecco ma secondo te Mario Trump vince su Twitter davvero e se ha senso significa poi qualcosa oppure no no nel no. senso che non sempre corrispondono i dati del scenario politico reale con quello diciamo con cioè quelli sono dei mondi social. Paralleli o che si intrecciano? Si intrecciano ma poco, meno di quanto ci si immagini, cioè ci sono a volte delle corrispondenze ma non sempre, anche perché è difficile fotografare per i sondaggisti, figuriamoci per chi fa analisi sui social, l'elettore tipo di Trump, cioè il vero tema di queste elezioni americane. Non dice chi è. Non dice chi è ed è difficile sapere chi è. Come in Italia con la Democrazia sì. Cristiana. Sì, l'altro giorno, ieri leggevo un pezzo sul Washington Post, molto interessante, che si poneva appunto la domanda, ma siamo sicuri che di i sondaggisti hanno fotografato esattamente Mario Abis, il popolo di Trump? Il presidente della Macron ci ha spiegato qualche giorno fa sì. come quegli strumenti di analisi oggi posso, siano obsoleti sì. esatto, posso ribattere a Pietrangelo sì. al volo, io non sono d'accordo sul fatto che abbia vinto l'establishment, anzi secondo me l'establishment è in crisi enorme, non riesce a capire, non comunica più con, chiamiamolo popolo per quello che è in fondo certo. e c'è in corso una rivolta del popolo è quello che molto io forte prima, sì. è tornato il popolo, il vero tema è che a questa domanda bisogna vedere se sa dove andare esatto, questo è il punto, questa vero. Domanda del popolo non ha ancora una risposta compiuta e non c'è un'elite perché poi ci vuole che riesca a governare questo processo, però la rivolta è in corso proprio piena piena dappertutto sì. 800240024 numero verde 349-238-6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. E allora Pietrangelo? Arrivano. Sentiamo. Last but a no coat of pain on this lonesome old town. Set 'em up, we'll be knocking 'em down. You wear a dress, baby, I wear a tie. We'll laugh at that old bloodshot moon in that burgundy sky. I nottambuli, che quelli che si sono visti al mattino, non avevano più la mano di bianco in faccia che quella delle ore piccole, avevano piuttosto la tenerezza cisposa della ninna nanna, perché deve essere finita poco fa una adunata di tiratardi della città e la metropolitana li cullava. Ha chiamato Jacopo Ortis, ha voluto questo brano con un messaggio: sei online, ma vuoi rispondere su WhatsApp? Carino. Mario, allora dove andiamo? In America? Certo. Che voce, Rihanna, Rihanna, oltre che bella, molto brava. Allora, Rihanna e Kanye West, dall'altro. Anche Paul McCartney c'è dentro, sì, ok. Giovanni, sì, torniamo in America, perché qua siamo ormai a 6 giorni dal voto, ricordo a tutti, presidenziali americane, 8 novembre, un passaggio importantissimo non solo per gli Stati Uniti, ma anche per noi. Credo che qui noi a Mix 24 abbiamo provato a spiegarlo, insomma, a raccontarlo in molte maniere. È fondamentale anche per noi. E Ronchey scrisse un pezzo sul Corriere della Sera tanti anni fa. Ronchey, Alberto Ronchey, sì, un grande giornalista. Prepararsi a Reagan era il titolo dell'editoriale. Ma forse qualcuno dovrebbe scrivere un editoriale intitolato Prepararsi a Trump. Perché le cose, a giudicare dall'agitazione dei democratici, non stanno andando benissimo per Hillary. Ovviamente è ancora strafavorita, ma sei giorni in una campagna elettorale sono ancora un tempo enorme, molto lungo. Il problema non è più Trump, che in realtà era stato comunque il carburante e l'assicurazione sulla vita della corsa presidenziale di Hillary, ma è se stessa Hillary. E il problema è l'email gate, come alcuni sanno, cioè la custodia, diciamo, poco ortodossa fatta da Hillary di migliaia di email del Dipartimento di Stato finite nelle mani della sua collaboratrice, ovviamente Huma Abedin, e però contemporaneamente nel computer del marito della Abedin, che è Weiner, che è un congressman democratico che è accusato, oggi indagato dall'FBI, per aver scambiato messaggi sessisti con una quindicenne. Ovviamente tutto questo ha prodotto dei risultati negativi. La Clinton ha perso terreno, sta perdendo terreno. Un problema di sicurezza. Sì, beh, gigantesco. Ma lì finirà male anche dopo l'8 novembre, questo è abbastanza evidente. Trump è in testa di un punto, non succedeva da maggio nel sondaggio di ABC Washington Post. E vabbè, insomma, questi sondaggi noi sappiamo oramai, sì, perché l'abbiamo detto e ridetto, che sono tutti, orientativi, sì, che descrittivi. Secondo me, così secondo me, l'elettorato potenziale di Trump è sottostimato. Secondo te ci dobbiamo preparare a Trump, penso, o no? Io penso che bisogna prepararsi a cercare di capire di che cosa ha più paura la gente. Cioè, ha più paura di un salto nel vuoto, incognita assoluta come è Trump, oppure di una persona di dubbia affidabilità come la Clinton? Ecco, sono le due paure contrapposte, sì, che secondo me si confrontano. In realtà non una scelta positiva, ma una scelta cosa hai più o meno paura. Sì, le visioni degli elettori americani sono negative. Peggio di Trump c'è solo Hillary. Lui è proprio dritto. Però interessa, posso aggiungere una Salamino. Cosa? No, mi hai fregato. Perché cosa vuoi dire? No, dai, voglio segnalare che c'è un libro del 64 che ha vinto il Pulitzer, che si intitola L'antiintellettualismo nella vita americana. Sembra scritto oggi. Sì, è una cosa pazzesca. Più di 40 anni dopo, la società americana assomiglia ancora a quella cosa là. E quando hai provato tutto, ricominci da capo. Insomma, questo è punto. Molto. Va bene, ok. Allora, Pietrangelo, Salamino. Oggi è il 2 di novembre. È la memoria dei defunti. È una notizia, bisogna pur darla. I morti mangiano, prendono biscotti e latte, e non c'è sepolcro dell'età aurea che non abbia la tavola imbandita. Alla Fiera dei Morti a Catania, che nella festa appena trascorsa del fine settimana, si trovano tibie e teschi di zucchero. E poi le pistole e i fulminanti, perché i morti sparano e portano allegria. I morti fanno trovare soldi, viziano i bambini, e quando qualche piccolino se ne sta papero, con l'occhio vago si sente interpellare: ma ti portarono qui i morticini? I morti, infatti, non sono mortacci. Sono i veri padroni dei giorni, e tornano che non hanno neppure bisogno delle porte socchiuse per entrare. Attraversano le pareti, passano il tempo loro concesso, che è quello di una notte, e si guardano intorno nelle case addormentate. Si avvicinano a tutti e a ciascuno affidano una carezza. E se solo potessimo vederli, quei morti, conosceremmo la verità del loro silenzio proprio invisibile. Ed è il loro modo di sorriderci. Mangiano e lasciano le briciole. Esattamente 41 anni fa moriva Pierpaolo Pasolini. Lo ricordiamo con le sue parole. Per un certo tempo, da ragazzo, ho creduto nella rivoluzione come credono i ragazzi di adesso. Adesso comincio a credersi un po' meno, quindi a queste palingenesi non si può credere. Sono in questo momento apocalittico, cioè vedo di fronte a me un mondo doloroso e sempre più brutto. Non ho speranze, quindi non mi disegno nemmeno un mondo futuro. Continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più. La parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario. È una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. La borghesia sta trionfando in quanto che la civiltà neocapitalistica è la vera rivoluzione della borghesia. Cioè, se la rivoluzione industriale in un certo senso livella tutto il mondo. Quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente. E allora questa culturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle civiltà dei consumi che sta distruggendo l'Italia. Da queste vite. Insomma, parole famosa quella di Pasolini, scrittore, poeta, regista, intellettuale scomodo, un uomo contro l'ipocrisia e contro la falsità, contro il conformismo. Per molti versi anche un profeta che aveva previsto anche la sua morte violenta il 2 novembre del 75 in mezzo alle baracche dell'idroscalo di Ostia. Mario, c'hai un'altra bolla? Sì. Regia ballano, Anch'io. Pure Minoli. Vabbè. Pietrangelo sbadiglia. Che c'ha? Allora, segnalo una cosa: i cinesi si stanno a comprare tutto in Italia, no? Pure squadre di calcio. Segnalo una cosa fatta dalla Germania molto interessante. I cinesi attraverso un fondo dovevano comprare un'azienda che produce microchip. Voi sapete tutti quanto sia strategico il settore, certo, dell'elettronica oggi. Si lega alla difesa, alla sicurezza nazionale. La società tedesca si chiama Aixtron. Il governo tedesco ha bloccato tutto tempo fa. C'è anche la manina suggeritrice dell'intelligence americana che li ha sconsigliati. Che li ha, diciamo così, sconsigliati vivamente di cedere ai cinesi. Secondo me, forse va fatta una riflessione, al di là di, diciamo, di blocchi contrapposti, eccetera, su quello che sta succedendo in Italia. Perché invece è tutto. Perché questa è politica estera, no? Voglio dire, se noi svendiamo o vendiamo anche a buon prezzo il paese a una potenza straniera, sia essa la Cina, siano essi gli Stati Uniti o la Russia o altri. Squadre di Milano sono cinesi, anche Palermo. Esatto, il calcio è una di quelle cose Una vetrina che brilla nel mondo nuovo. No, dovrebbero riflettere i nostri governanti su che cosa sta succedendo. Canzoniere! Namo. I fatti sono nemici della verità. E il posto del capotavola è quello dove scelgo di sedere io. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. SMS, vuoi dare l'aiuto? No, voglio tornare su Pasolini dopo con te. Vabbè, tanto che aspettiamo la telefonata. No, io voglio dire questo: Pasolini, che da ragazzo non era una delle mie letture preferite, vabbè, ok, oggi io lo trovo, è un profeta. Mamma mia, cosa non aveva visto. Aveva capito tanto. No, Pietrangelo secondo me è di posizione contraria. Tu no, pensi di no? Troppo comodo essere scomodo. Eccola. È bella tua storia, però. È troppo comodo essere scomodo. Lì è un autogol tremendo che ti sei fatto. Minoli butta fuoco 1-0. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Mix 24. si muovono dietro le quinte della politica, studiano l'opinione pubblica, orientano il consenso. Sono gli Spin Doctors, una figura arrivata in Italia negli anni 90, ma nata in America molto tempo prima. Tutto inizia quando un giovane intellettuale della vecchia Europa va a vivere in America. È Edward Bernays, nipote di Freud. Bernays si pose una domanda: come applicare all'opinione pubblica americana quello che lui definiva il concetto del consenso? Intorno alla parola consenso ruota la sua riflessione e l'obiettivo è uno: vendere una merce, l'uomo politico. Ma è alla fine degli anni 50 che la figura degli Spin Doctors si afferma. A trasformare tutto è la televisione. 1960, la sfida Nixon Kennedy sbarca in televisione. 70 milioni di elettori assistono per la prima volta a un dibattito elettorale. Nella comunicazione politica entra con prepotenza la parola immagine. Kennedy era bello, si esprimeva bene ed aveva carisma. Quando si fa un discorso, si parla anche a persone lontanissime. In televisione, invece, bisogna parlare come a qualcuno che si trovi a un metro di distanza. Alla fine degli anni Ottanta, ogni forma di dilettantismo è sparita e influenzare le masse è diventato un vero e proprio mestiere. Con gli anni 90, l'esplosione della tecnologia e i canali di all news, anche la comunicazione politica si è reinventata, alla ricerca sempre di qualcosa da far dire. Chi sta al governo deve dettare il palinsesto. Bisogna sapere che la tale cosa va detta alle 9 in punto, così tra le 9 e mezzogiorno le televisioni non parleranno d'altro, ma a mezzogiorno tutto sarà già superato e quindi non appena parte il telegiornale di mezzogiorno dobbiamo trovare subito qualche altra cosa da dire, non ci si può mai fermare. Allora Mario? Dunque, proprio in chiusura, segnalo che i mercati hanno cominciato a esprimere un certo nervosismo, parlo di Wall Street in particolare, cioè non scommettono più su una vittoria sicura di Hillary Clinton, che, voglio ribadirlo ancora una volta, è pur sempre ancora la favorita. Però Wall Street comincia a pensare che qualcosa non stia filando per il verso giusto. Vediamo come vanno anche, come va anche la seduta di oggi di borsa negli Stati Uniti. Pietrangelo? No, volevo sapere, ma Clinton al referendum in Italia vota? Ma quelli votano sì. Vota tu. Sì? Beh, Obama, Clinton, non l'ha detto. Non l'ha detto, però insomma. L'ha fatto dire all'ambasciatore. Però sì, loro sono, beh, l'ambasciatore, il Dipartimento di Stato, Obama, cioè, sono tutti per comunque, il sì. Tutti gli uomini chic. Non li hanno fatti. No, anche i tedeschi adesso, ho visto il ministro degli interni. Ma perché tutti hanno paura. Ministro degli interni tedesco. Ragazzi, però qua dobbiamo fare informazione, informazione e verità. Cioè loro hanno paura. Facciamo sempre, proviamo. Sì, no, però, cioè, loro, tutti quanti, hanno paura del debito pubblico italiano, 2200 e fischia miliardi, e dicono ma cosa succede se non c'è un governo? Arriva la signorina Spread, torna la signorina Spread. La signorina Spread è lì già pronta che sta già facendo i suoi primi, esatto, primi messaggi, sta già primi 148. Allenamenti. Vabbè, intanto adesso noi col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, agosto 2016. L'attività agricola protegge dall'asma? I bambini che crescono in una fattoria crescono in genere in mezzo agli animali, animali dotati di pelo e con maggior numero di adulti intorno. Queste caratteristiche sembrerebbero proteggerli dalle malattie allergiche in generale, quasi che averci adulti con quindi la possibilità di infettarsi con i normali germi o animali che producono sicuramente delle sostanze allergizzanti, in qualche modo li coltivi fin da piccoli in modo da sviluppare un sistema immunitario che non si ribella, ma anzi ci difende da queste aggressioni esterne. Lo studio è molto interessante perché ha beccato due popolazioni di agricoltori con caratteristiche genetiche uguali negli Stati Uniti, gli Amish e gli Utteriti. Avrete visto forse in televisione qualche storia, soprattutto sugli Amish, che sono una comunità che continua a seguire i dettami della tradizione. E infatti è interessante queste due popolazioni studiarle perché gli Amish continuano con un'agricoltura molto tradizionale, con tanto di buoi, aratro e vanga, mentre invece gli Utteriti hanno, come dire, sdirazzato e svolgono un'attività agricola fortemente meccanizzata. Bene, gli Amish vanno molto meglio. I bambini Amish hanno solo il 5% l'asma contro il 21% degli utteriti, e la sensibilizzazione allergica studiata nel sangue è nel 7% negli Amish contro il 33% negli utteriti. Si è visto che i livelli di endotossine batteriche e di citochine sono maggiori negli Amish, quindi questo sembrerebbe dimostrarci che l'esposizione a batteri inibisce l'infiammazione perché stimola il sistema immunitario. Da qui meno asma e meno allergie nei figli degli Amish. E per chiudere, Gloria Guerrero stamattina cosa ci dedica? Oggi una canzone a chi sceglie sempre la strada più lunga e complessa, fatta di ricordo e malinconia e a volte anche rimpianto, a chi sente la nostalgia dell'essere in due. Mondo, tieniti pronto, perché potremmo ritornare. Tiziano Ferro. Troppo, troppo, troppo ancora. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare poi ci piove addosso. Ridigli in faccia al tempo quando passa, per favore. Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare. Passo la vita sperando mi capiscano. Amici, amori, affini, prima che finiscano. E ancora sempre solo una strada, la stessa. Scelgo sempre la più lunga, la più complessa. Quindi perché mi scanso invece di scontrarti? E tu perché mi guardi se puoi reclamarmi? Ricordi, ce lo insegnò il 2013. Io e te all'odio, non sappiamo crederci. Ho passato tutto il giorno a ricordarti nella canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. Lo so io, ma